Cari fratelli e sorelle, il padre della Chiesa a cui oggi volgiamo l'attenzione è San Paolino di Nola, era un contemporaneo di Sant'Agostino, al quale fu anche legato da viva amicizia. Paolino esercitò il suo ministero in Campania a Nola, dove fu monaco, poi presbitero e vescovo, ma era originario dell'Aquitania, sud della Francia, precisamente di Bordeaux, dove era nato da famiglia altolocata. Qui ricevette una fine educazione letteraria, avendo come maestro il famoso poeta Ausonio. Dalla sua terra si allontanò una prima volta per seguire la sua precoce carriera politica, che lo vide assurgere già in giovane età al ruolo di governatore della Campania. In questa carica pubblica fece ammirare le sue doti di saggezza e di mitezza. Fu in questo periodo che la grazia fece germogliare nel suo cuore il seme della conversione. Lo stimolo venne dalla fede semplice e intensa con cui il popolo onorava la tomba di un santo, il martire Felice, nel santuario dell'attuale Cimitile. Come responsabile della cosa pubblica, Paolino si interessò a questo santuario e fece costruire un ospizio per i poveri e una strada per rendere più agevole l'accesso ai tanti pellegrini. Ma mentre si adoperava per costruire la città terrena, egli andava scoprendo la strada verso la città celeste. L'incontro con Cristo fu il punto di arrivo di un cammino laborioso, seminato di prove. Circostanze dolorose, a partire dal venir meno del favore dell'autorità pubblica, politica, gli fece toccare con mano la caducità delle cose. Una volta arrivato alla fede scriverà: l'uomo senza Cristo è polvere ed ombra. Desideroso di gettare luce sul senso dell'esistenza, si recò a Milano per porsi alla scuola di Sant'Ambrogio. Completò poi la formazione cristiana nella sua terra natale, ove ricevette il battesimo per le mani del vescovo Delfino di Bordeaux. Nel suo percorso di fede si colloca anche il matrimonio. Sposò infatti Terasia, una pia nobildonna di Barcellona, dalla quale ebbe un figlio. Avrebbe continuato a vivere da buon laico cristiano se la morte del bimbo dopo pochi giorni non fosse intervenuta a scuoterlo, mostrandogli che altro era il disegno di Dio sulla sua vita. Si sentì in effetti chiamato a votarsi a Cristo in una rigorosa vita ascetica. In pieno accordo con la moglie Terasia, vendette i suoi beni a vantaggio dei poveri. Insieme con lei lasciò l'Aquitania per Nola, dove i due coniugi presero dimora accanto alla basilica del protettore San Felice, vivendo ormai in casta fraternità, secondo una forma di vita alla quale anche altri si aggregarono. Il ritmo comunitario era tipicamente monastico, ma Paolino, che a Barcellona era stato ordinato presbitero, prese ad impegnarsi pure nel ministero sacerdotale a favore dei pellegrini. Ciò gli conciliò la simpatia e la fiducia della comunità cristiana, che alla morte del vescovo verso il 409 volle sceglierlo come successore sulla cattedra di Nola. La sua azione pastorale si intensificò, caratterizzandosi per un'attenzione particolare verso i poveri. Lasciò l'immagine di un autentico pastore della carità, come lo descrisse San Gregorio Magno nel capitolo terzo dei suoi dialoghi, dove Paolino è scolpito nel gesto eroico di offrirsi prigioniero al posto del figlio di una vedova. L'episodio è storicamente discusso, ma rimane la figura di un vescovo dal cuore grande, che seppe stare vicino al suo popolo nelle tristi contingenze delle invasioni barbariche. La conversione di Paolino impressionò i contemporanei. Il suo maestro Ausonio, il poeta pagano, si sentì tradito e gli indirizzò parole aspre, rimproverandogli da un lato il disprezzo giudicato dissennato dei beni materiali, dall'altro l'abbandono della vocazione di letterato. Paolino replicò che il suo donare ai poveri non significava disprezzo per i beni terreni, ma semmai una loro valorizzazione per il fine più alto della carità. Quanto agli impegni letterari, ciò da cui Paolino aveva preso concedo non era il suo talento poetico, che ha continuato a coltivare, ma i moduli poetici ispirati alla mitologia e agli ideali pagani. Una nuova estetica governava ormai la sua sensibilità. Era la bellezza del Dio incarnato, crocifisso e risorto, di cui egli si faceva adesso cantore. Non ha lasciato in realtà la poesia, ma attingeva ormai dal Vangelo la sua ispirazione, ha proprio creato una vera poesia cristiana. Come egli dice in questo verso, per me l'unica arte è la fede e Cristo la mia poesia. Ad nobis ars una fides et musica Christus. I suoi carmi sono canti di fede e di amore, nei quali la storia quotidiana dei piccoli e grandi eventi è colta come storia della salvezza, come storia di Dio con noi. Molti di questi componimenti, i cosiddetti carmi natalizi, sono legati all'annuale festa del martire Felice, che egli aveva eletto quale celeste patrono. Ricordando San Felice, egli intendeva glorificare Cristo stesso, convinto com'era che l'intercessione del Santo gli avesse ottenuto la grazia della conversione, dice nel Carme trentunesimo, nella tua luce gioioso o amato Cristo. Questo stesso concetto egli vuole esprimere ampliando lo spazio del santuario con una nuova basilica che fece decorare in modo che i dipinti, illustrati da opportune didascalie, costituissero per i pellegrini una catechesi visiva. Così egli spiegava il suo progetto in un carme dedicato a un altro grande catecheta, San Nicita di Remesiana, mentre lo accompagnava nella visita alle sue basiliche, disse: ora voglio che tu contempli le pitture che si snodano in lunga serie sulle pareti dei portici dipinti. A noi è sembrata opera utile rappresentare con la pittura argomenti sacri in tutta la casa di Felice, nella speranza che alla vista di queste immagini la figura dipinta susciti l'interesse delle menti attonite dei contadini. Ancora oggi si possono ammirare i resti di queste realizzazioni, che collocano a buon diritto il Santo Nolano tra le figure di riferimento dell'archeologia cristiana. Nell'acetereo di Cimitile la vita scorreva nella povertà, nella preghiera e tutta immersa nella lectio divina. La scrittura letta, meditata, assimilata era la luce sotto il cui raggio il santo Nolano scrutava la sua anima nella tensione verso la perfezione. A chi rimaneva ammirato della decisione da lui presa di abbandonare i beni materiali, egli ricordava che tale gesto era ben lontano dal rappresentare già la piena conversione, e scrisse: l'abbandono o la vendita dei beni temporali posseduti in questo mondo non costituisce il compimento, ma soltanto l'inizio della corsa nello stadio. Non è, per così dire, il traguardo, ma solo la partenza. L'atleta, infatti, non vince allorché si spoglia, perché gli dipone le sue vesti proprio per incominciare a lottare, mentre è degno di essere coronato vincitore solo dopo che avrà combattuto a dovere. Accanto all'ascesi, alla parola di Dio, la carità che è l'ispirazione di tutto, l'anima di tutto. Nella sua comunità monastica i poveri erano di casa, era casa loro. Ad essi Paolino non si limitava a fare l'elemosina, li accoglieva come fossero Cristo stesso. Aveva riservato per loro un reparto del monastero. E così facendo, gli sembrava non tanto di dare, ma di ricevere. Nello scambio di doni tra l'accoglienza offerta e la gratitudine orante degli assistiti, chiamava i poveri suoi patroni e, osservando che erano alloggiati al piano inferiore, amava dire che la loro preghiera faceva da fondamento alla sua casa. San Paolino non scrisse trattati di teologia, ma poesia, carmi. E i suoi carmi, il denso epistolario, sono ricchi di una teologia vissuta, intrisa di parola di Dio, costantemente scrutata come luce per la vita. In particolare emerge il senso della Chiesa come mistero di unità. La comunione era da lui vissuta soprattutto attraverso una spiccata pratica dell'amicizia spirituale. In questa Paolino fu un vero maestro, facendo della sua vita un crocevia di spiriti eletti, da Martino di Tours a Girolamo, da Ambrogio ad Agostino, da Delfino di Bordeaux a Nicita di Remesiana, da Beatrice di Rouen a Rufino di Aquileia, da Pamacchia a Sulpizio Severo e a tanti altri ancora più o meno noti. Nascono in questo clima le intense pagine scritte ad Agostino. Al di là dei contenuti delle singole lettere, impressiona il calore con cui il santo nolano canta l'amicizia stessa, quale manifestazione dell'unico corpo di Cristo animato dallo Spirito Santo. Ecco un brano significativo. All'inizio della corrispondenza tra i due amici, Agostino Paolino di Nola: non c'è da meravigliarsi se noi, pur lontani, siamo presenti l'uno all'altro e, senza esserci conosciuti, ci conosciamo, poiché siamo membra di un solo corpo. Abbiamo un unico capo, siamo inondati da un'unica grazia, viviamo di un solo pane, camminiamo su un'unica strada, abitiamo nella medesima casa. Bellissima descrizione che cosa dice essere cristiani, essere corpo di Cristo, vivere nella comunione cattolica della Chiesa. La teologia del nostro tempo ha trovato proprio nel concetto di comunione, che appare così bene in questa epistola, in questa lettera di San Paolino, ha trovato come concetto della Chiesa il concetto di comunione come chiave di approccio al mistero della Chiesa. La testimonianza di San Paolino di Nola ci aiuta a sentire la Chiesa quale c'è la presenza del Concilio Vaticano II come sacramento dell'intima unione con Dio e così dell'unità di tutti noi e finalmente di tutto il genere umano. In questo senso vi auguro a tutti un buon tempo di avvento.